Il consueto benvenuto, buona serata dalla voce di Marco Gravelli. Siete su Rock FM. Lo spazio che prende il via è quello di Hard and Heavy, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Saluto coloro che sono all'ascolto, saluto il nostro autore di tutti i testi, cioè Simone, che ci permette di iniziare con una band americana, precisamente di Los Angeles, composta da quattro elementi, si chiamano XYZ, gruppo che risale alla metà degli anni 80 e dopo aver trascorso alcuni anni a suonare dal vivo ha effettuato il suo esordio nel 1989 con l'omonimo album prodotto da Don Dokken. Il sound infatti è molto molto vicino a quanto proposto dai Dokken stessi. Dall'album furono estratti anche due singoli con tanto di video passati in rotazione sulle varie TV americane, ma nonostante ciò l'album non arrivò al grande successo. Ancor peggio andò il secondo lavoro, Hungry, al quale seguì un doppio cambio di line-up. Anche il terzo lavoro non ottenne quanto sperato, tanto che la band a quel punto si sciolse. Gli XYZ si sono comunque riuniti diverse volte, l'ultima pubblicazione risale al 2005 con il lavoro Rainy Days. Dal primo album, che comunque non ottenne un grande successo ma è un valido lavoro a mio avviso, andiamo ad ascoltare uno dei singoli estratti, cioè Inside Out. Dream that you are Inside Out, questo è il titolo del brano, del motivo che abbiamo scelto per rappresentare il primo album della band di Los Angeles degli XYZ, con il quale abbiamo iniziato l'appuntamento di Ardent Heavy. Continuiamo con un altro grandissimo personaggio, Ozzy Osbourne, protagonista quest'anno al Gods of Metal nella prima giornata, anzi nell'ultima giornata, quella del 30 di giugno, e protagonista anche con il suo ultimo album Black Rain. Artista che deve naturalmente la sua fama e notorietà non solo per la sua militanza nei Black Sabbath sino al 1978, ma anche per la sua carriera solista iniziata un anno dopo nel 79 in compagnia di due grandi musicisti quale il chitarrista Randy Rhoads dei Quiet Riot e il tastierista Don Airey. L'esordio arriva nell'80 con l'album Blizzard of Oz, che ebbe da subito un buon successo tanto da raggiungere il settimo posto in Inghilterra. Successo bissato anche dal secondo lavoro, Diary of the Madman del 1981, dove Madman è anche uno dei suoi soprannomi. Purtroppo nell'82 il chitarrista americano Randy Rhoads muore in un incidente aereo. Segue quindi l'ingresso di un nuovo chitarrista, con il quale incidono il terzo album, Bark at the Moon, del 1983. Arriva anche The Ultimate Scene e nell'87 l'importante ingresso del bravo chitarrista Zakk Wylde, con il quale incidono No Rest for the Wicked, al quale segue l'ottimo No More Tears del 91, che ha ricevuto ben 4 dischi di platino, over 4 milioni di copie vendute. Ricordo che Zakk Wylde è tuttora il suo fedele chitarrista, anche se milita in una propria band, cioè i Black Label Society. Dal secondo lavoro, Diary of the Madman, della carriera solista di Ozzy, oggi andiamo a proporre uno dei classici, Over the Mountain. Baby. The Mountain, il grande Ozzy con le note di questo pezzo dall'album Diary of the Madman. Continua il cammino musicale di Arden Devi, arrivando, lasciando un po' il passato, arrivando alle cose più recenti, almeno con il prossimo personaggio, cioè l'esordio solista del 37enne cantante inglese David Redman, noto per la sua militanza nella band tedesca dei Pink Cream 69. Personaggio molto stimato nel panorama hard rock. Importante per lui è stato il 1994, quando è entrato nei Pink Cream 69 per sostituire Andy Darris, che era entrato negli Halloween. In questi 13 anni di carriera con i Pink ha inciso ben 7 album, oltre ad aver preso parte come special guest nel progetto 3 ed aver partecipato ancora come special guest ad album degli Adagio, DC Cooper e Silent Force. Questo suo album esce per l'etichetta italiana di Napoli Frontiers, presenta 12 tracce di ottimo hard rock. Oltre a cantare si è occupato delle tastiere e delle chitarre. Presenti diversi musicisti quali il tastierista dei Vanden Plas Gunther Verno e l'esperto del genere Tommy Denander alla chitarra. Realizzato anche il video del brano che andiamo a proporre, il singolo Don't Let It Slip Away, David Redman. questo è il titolo Don't Let It Slip Away per l'album solista di David Redman, già cantante dei Pink Cream 69. Passiamo alla prossima band, ritorniamo un po' nel passato, andiamo alla metà degli anni 80 con un super gruppo che si chiamavano The Firm. E arrivavano dall'Inghilterra, composto da quattro elementi, hanno pubblicato due album, il primo nell'85 e il secondo nell'86. Allora, il gruppo era composto alla voce Paul Rogers, già di Bad Company, attualmente cantante dei Queen, Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, poi Tony Franklin al basso e Chris Slade, ex Uriah Heep, alla batteria. L'omonimo album d'esordio arrivò al 17° posto negli States e 19 in Inghilterra. Il seguente, il successivo Mean Business, arrivò al numero 22 in America. Però questi risultati non diedero soddisfazione alla band, che decise di sciogliersi. L'album entrambi erano prodotti in coppia da Jimmy Page e da Paul Rogers. L'etichetta era la Atlantic Records. Oggi andiamo ad ascoltare proprio dal primo album The Firm le note, The Firm con la M, questo è il nome della formazione, il brano intitolato Someone to Love. Ricordo Jimmy Page alla chitarra, Tony Franklin basso, Chris Slade batteria, Paul Rogers alla voce. Born to Love, un funk rock con qualche piccolo eco di Led Zeppelin. Del resto, appunto, alla chitarra c'è proprio Jimmy Page, Paul Rogers alla voce, The Firm, questa super band che ha pubblicato soltanto due album. Da questa super band ad un altro gruppo che è ancora in attività, si chiamano G-War, una delle band metal che punta molto sull'immagine e sullo spettacolo più che sulla qualità del prodotto, spettacoli dal vivo, tanto che sono soliti esibirsi e presentarsi completamente travestiti da mostri, un po' come i Lordi, anche se loro lo fanno da molto molti anni prima. Si chiamano appunto G-War, sono nati nell'85 e il loro esordio arriva nell'88 con l'album El Ho, la cui produzione lascia un po' a desiderare, diciamo che è quasi un'autoproduzione. Nonostante ciò, la band desta molto interesse, tanto da ottenere un contratto con la famosa Metal Blade Records, che ne pubblica il secondo lavoro, Scundoms of the Universe, nel 1990. Da quell'album fu anche estratto un singolo per il quale venne realizzato un video. I video, così come i loro testi, sono molto divertenti e dissacranti. Approfittando di questo momento fortunato, registrano un live, non solo audio ma anche video. Seguono per tutta la carriera numerosissimi cambi di line-up e diversi sono gli album pubblicati. L'ultimo, Behind Hell, risale allo scorso anno. Io sono in possesso proprio del loro primo vinile, che penso qualcosa varrà perché, ripeto, era quasi un'autoproduzione. Copertina orribile, incisione un po' quello che è. Il brano si intitola War Toy, sono i G-War. Even if the shadow sweet name. Baby, I know that you and I will meet again someday. I know there's something you want to say. You close the door at night. You make me go. Ogni tanto anche in Arden Daily siamo dolci, a martedì una ballata la piazziamo sempre in scaletta. Loro si chiamano Circus Maximus, bellissimo nuovo album dal titolo Isolate, da quale vi ho proposto questa Zero. L'abbiamo già presentato in altri brani nelle passate puntate di Arden Daily, questo secondo album per questa prog metal band norvegese, esattamente di Oslo. Sono in cinque elementi, i membri fondatori sono il cantante Eriksen e i due fratelli Haugen, che suonano chitarra e batteria. Nati nel 2000, dopo due demo, riescono ad arrivare all'esordio nel 2005 con l'album The First Chapter, che ottiene ottime recensioni in tutta Europa. A due anni di distanza da quel lavoro esce tramite Frontiers Record questo secondo Isolate, che si compone di 9 ottime tracce mixate come il precedente dal celebre produttore Tommy Jensen. La prossima band esce per l'etichetta spagnola Locomotive Records, distribuzione Frontiers, è il terzo album per una band danese, si chiama Anubis Gate, composta da 5 elementi, propongono heavy metal a tratti progressivo. Leader del gruppo è il chitarrista Jesper M. Jensen, che ricordiamo aver suonato come bassista nel primo album degli Invocator. Successivamente decide di formare una propria band che musicalmente suona un heavy metal melodico. Nascono così questi Anubis Gate. Dopo aver scritto nuove tracce, registra nel 2003 l'album d'esordio Purification e ottiene un contratto con la Locomotive Records, che si occupa di distribuirlo in Europa e in America. Il secondo lavoro è Perfect Forever, è uscito alla fine del 2005 ed ora arriva questo Andromeda Unchained. Importante novità in line-up con l'ingresso di un nuovo cantante, si tratta niente meno che di Jakob Hansen degli Invocator, noto produttore, già amico del leader Jesper, nonché produttore dei due precedenti album della band. Anche questo nuovo Andromeda Unchained è stato registrato, prodotto, masterizzato in Danimarca. Oggi li ascoltiamo, li proponiamo con questo estratto dal titolo Resurrection Time, Anubis Gate. Titola Resurrection Time da Andromeda Unchained, il terzo album dei danesi Anubis Gate con la voce di Jacob Hansen. Andiamo invece ad una band tutta italiana che ottiene buon consenso all'estero, ormai sono molte e questo ci fa enormemente piacere, almeno personalmente. Loro si chiamano Elvan King, è uscito una settimana fa su etichetta AFM Records questo loro quarto album in studio dal titolo Saith. Questa band propone power metal a tratti epico con innesti però folk Il gruppo nasce nel 1997 formato da due chitarristi. Dopo un solo demo la band ottiene un contratto nel 2000 con l'etichetta tedesca AFM Records, con la quale, come dicevo, sono attualmente sotto contratto. Il debutto risale al 2001, fu ben accolto dalla critica di tutta Europa. Da segnalare nel 2002 l'abbandono del cantante Damna Goras e la sua pronta sostituzione. Con un nuovo vocalist esce il secondo album nel 2004, che conferma le qualità del gruppo, oltre all'ingresso di un tastierista violinista. Il terzo album si intitola The Winter Wake, è uscito da poco più di un anno e mezzo e vedeva il rientro in formazione del primo cantante, l'abbandono del secondo chitarrista Yarpen, poiché non più interessato alla band e al metal. Questo nuovo lavoro, The Safe, è stato registrato in Italia, tranne le parti di batteria che sono state registrate in Germania. Il coproduttore è Nino Loren, chitarrista dei Thunderstorm, che si è occupato anche del mixaggio. La masterizzazione è stata invece curata da Mika Jussila presso i Finvox Studios. Ricordo che la band suonerà di supporto agli svizzeri Gotthard qui in Italia per 4 date a dicembre, 10 a Firenze, 11 a Roma, 13 a Treviso, 15 a Milano. Ce li ascoltiamo allora con questo brano, la traccia numero 2 dell'album Lost Hill of Memories. Yeah. For all the ones who seek their dawn, my wrath I breed, my wrath I spawn. Behind a crooked cross they hide. Dopo aver ascoltato gli italiani Alvin King, arriva l'appuntamento con le Metal News di questa sera. Partiamo con i Leather Wolf, band che verrà a suonare dal vivo, ha reso noto appunto la data, l'8 di novembre a Milano. Liv's Eyes, la gothic metal band e la bionda Liv Christine, registrerà uno show che si terrà il 20 ottobre durante il Metal Female Voices Fest in Belgio per la pubblicazione di un DVD. I Bonfire, anche i Bonfire dal vivo in Italia. La band hard rock tedesca tornerà il 23 novembre presso il New Age di Treviso, New Age Club a Treviso. Veniamo invece a parlare dei Primal Fear, uscito lo scorso weekend il nuovo album New Religion per la band del cantante Ralph Shippers, e prossimi ad arrivare in Italia insieme a Udo, e già arriva un cambio di line-up. In effetti il chitarrista Stefan Leibing, per motivi personali, non potrà suonare in tour. Al suo posto rientra in formazione Alex Beyrod, che aveva già militato in occasione del secondo album. Ed è proprio dal nuovissimo prodotto dei Primal Fear, dal titolo New Religion, che noi presentiamo, proponiamo Blood on Your Hands. prossimamente dal vivo, e seguite gli appuntamenti giornalieri di Rock FM, perché regaleremo i biglietti per vedere dal vivo sia Primal Fear che la formazione di Udo in coppia. Dall'album New Religion, questa era Blood on Your Hands, nello spazio serale di Arden Davy. Dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì. Ricordo che questo venerdì, nella seconda parte, avremo l'intervista con la formazione dei Nightwish. Presenteremo la nuova cantante e tracce dal nuovo album che arriverà proprio questo weekend. La prossima settimana invece esce questo Diamonds Unlocked, nuovo album per il chitarrista 47enne tedesco Axel Rudi Pell, che ha militato nel lontano 1984 con gli Steeler, incidendo 4 splendidi album per poi intraprendere la carriera solista che continua sino ad oggi. Da notare che nei suoi album solisti si è avvalso della collaborazione di ottimi musicisti, specialmente cantanti come Rob Rock per il secondo album, Jeff Scott Soto per il terzo e il quarto. Alla batteria c'è stato il bravissimo Jörg Michael degli Stratovarius, Rage, Gravedigger, Running Wild, sostituito dall'altrettanto bravo Mike Terrana, che tuttora ne fa parte. Questo album è un album di cover, vi sono pezzi dei Riot, degli U2, di Chris Rea, dei Kiss, Michael Bolton, Free, i Montrose, gli Who, i Mission, Phil Collins, veramente spazia ad ampio raggio tra il pop e l'hard rock. Per quanto riguarda la lineup, rimane confermata: lui alla chitarra, cioè Axel Rudi, alla voce Johnny Joely, vi ho già parlato della batteria del grande Mike Terrana, e di Ferdi Durenberg alle tastiere. Ascoltiamo le note del brano dal titolo Warrior, la cui versione originale è dei Riot. originariamente dei Riot, che apre questo nuovo album tutto di cover dal titolo Diamonds Unlocked, per la chitarra e la voce, no, la voce è quella di Johnny Joy, la chitarra è di ex Rudy Pell, in uscita la prossima settimana su etichetta SPV Records. Siamo in addirittura d'arrivo anche per questa sera con Arden Davy. Ricordo l'opportunità e la possibilità di poter riascoltare le varie puntate, i vari programmi di Arden Davy tramite il nostro sito www.radiorockfm.com. Ringrazio lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Ringrazio naturalmente Simone per aver preparato testi e tracklist. Vi lascio insieme a Claudia come ogni sera con il consueto appuntamento dalle 21 alle 23. Noi ci ritroveremo domani, sempre qua su Rock FM, dalle ore 20 alle 21.